Quattordicesima stazione. Gesù posto nel sepolcro. La pietra è stata messa al suo posto. Tutto sembra finito. È il momento in cui tutto comincia. È il radunarsi degli apostoli. È il rinascere delle dedizioni, delle speranze. La Pasqua si avvicina. Nello stesso tempo l'odio dei nemici gira attorno al sepolcro e a Maria Santissima e agli apostoli. Ma essi non hanno paura. E fra poco brillerà il mattino della risurrezione. Signore Gesù, possa anch'io non aver paura. Non aver paura quando tutto sembrerà irrimediabilmente perduto. Non aver paura quando tutte le forze della terra sembreranno nelle mani dei tuoi nemici. Non aver paura perché sono ai piedi della Madonna, vicino alla quale si raduneranno sempre e sempre di nuovo per nuove vittorie gli autentici seguaci della tua Chiesa.